chiacchiere distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. E 53 minuti primi sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Siamo tornati. E così abbiamo anche sperimentato, l'avete per le poche e i pochi audaci. Diti e ardite che hanno usato seguire la puntata della settimana scorsa, dicevamo, abbiamo sperimentato finalmente, perché sapete, ci piace sperimentare la prima trasmissione radiofonica con i sottotitoli. Diciamo che era tutto pronto, avevamo sperimentato, avevamo provato anche, avevamo fatto il check delle attrezzature e del collegamento, attenzione. Come nella migliore tradizione dei concerti, tutto a posto, poi ci si ferma, si aspetta. Si ringrazia prove tecniche di trasmissione, si comincia. Avrebbe tutto, era stato provato, microfoni, strumentazioni musicali, tutto a posto, strumentazioni tecnologiche eccetera, connettività, e quando al dunque è andata solamente la musica, le parole non sono andate in onda, però c'erano i sottotitoli, quindi se non avevate la radio con i sottotitoli non avete potuto capire quello che invece andavamo dicendo noi, non che sia di grande importanza, non vi siete persi e perse nulla, non appunto la sperimentazione dei sottotitoli radiofonici. Ovviamente non per questo inconveniente tecnico, però dovete far mancare il sostegno alla radio, anzi a maggior ragione. E questo avviene principalmente attraverso la campagna di radioabbonamento che la radio ha lanciato ormai da molte settimane. C'è un bel bannerone a inizio che campeggia sulla pagina, sul sito della radio www.ondarossa.info. Basta andare appunto sul sito. C'è una grafica che vi introduce al radioabbonamento e di lì, dato che mancano soltanto 16 giorni dovete assolutamente sbrigarvi per fare in maniera tale che anche i mesi estivi di questa radio, di questa radio, fra le spese folli che ci attanagliano, ma non perché andiamo a fare shopping, ma tutt'altro, rimediamo di qua e di là, cerchiamo di araspare o aruspare tutto quello che è possibile, ma per starci dentro con le spese dovete venire alle iniziative, dovete sottoscrivere per la radio, dovete venire a trovarci. 6180 4001, numero del conto corrente postale, se volete, se vi piace di più. Da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 00185 Roma San Lollo, via dei Volsci 56. Se volete comunicare con noi, ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla redazione, i social e tutte le loro tentacolari possibilità. Se volete insultare il sottoscritto, 25 scritto al numero @ondarossa.info, e soprattutto accendete qua le luci che non si accendono, comunque trillate. 06491750, dal 1977 il numero telefonico di Radio Onda Russa. Parliamo del lutto nazionale, non vi preoccupate. Per ora ce ne andiamo a Pistoia. 23:11 minuti, Radio Onda Rossa, 25 o'clock ai controlli, e abbiamo iniziato con delle strumentali. E quindi dicevamo prima, iniziando da Pistoia e per la precisione con Karl Marx Was a Broker, una band di postcore, comunque appunto strumentale o instrumental rock come si autodefiniscono loro, sciolta ormai da qualche anno, dal 2016. E appunto dal lavoro del 2016 che si chiama Monoscope abbiamo ascoltato l'ultima traccia del disco, la ottava per l'esattezza, che si chiama Nord. Mentre sotto la nostra voce sta andando ancora il lavoro, invece questo più recente, dell'ottobre del 2018 per l'esattezza, postcore doom per quanto riguarda Olobon da Roma. Buoni alti livelli. E dicevamo giorno funerale di Stato, non sapevamo, non credevamo si arrivasse a tanto per un albero caduto. Una grossa quercia con più di un secolo che si è schiantata sotto il proprio peso, dato che è cresciuta sempre per storto, come ci piace a noi d'altronde. O almeno noi crediamo che per questo siano stati proclamati questa giornata di lutto nazionale. Boh, penso di sì, credo, no? Poi chissà, capisce. Però sì, insomma, era un bel esemplare di quercia mastodontica. Un vero peccato per l'ecosistema la sua perdita. E ora ci spostiamo invece, ricordandovi sempre lo 0649175050, recapito di Onda Rossa. Ci spostiamo nell'Oakland. Stati Uniti, patria di Neurosis, o Neurosis come vi piace di più. Un lavoro del 1989, poi ripubblicato recentemente. The word is law, la parola è legge. Da qui ci andiamo ad ascoltare la conclusione dell'album, la breve Insensivity e la finale Blisters. Radio Onda Rossa 25 o'clock, continuando a macinare queste pesanti ritmiche. Aspetta, che rimandiamo, Solo per dire due parole su Neurosis, disco appunto del 1989. The World Is Low. Un disco che rappresenta un po' il passaggio, con anche l'ingresso di Steve Von Till nella band, fra le sonorità più metal, più hardcore, più past hardcore, verso appunto il post metal, le cose più sperimentali, più lente, che poi caratterizzeranno tutto il decennio successivo e altro ancora. Questo così un po' lo definivo come il disco più bello che c'avevo, vabbè. Ci piace la plastica, ci piace avere i supporti materiali della musica. Ma non tanto per la tecnica o la sbavatura, è proprio come suona, come gira questo lavoro pescato chissà dove. Stiamo parlando di un combo composto da Steven Wigg, Jason Newsted e Joe Ledesma. Steven Wigg alla batteria, Jason Newsted, vecchio bassista dei Metallica, invece qui è con la chitarra, e Joe Ledesma invece che passa al basso. Una presa diretta praticamente questa per quanto riguarda la registrazione. Stiamo parlando del 2003. Chop House Record e ovviamente loro quasi sconosciuti, Papa Willy. Onda Rossa da capo, ci piaceva tantissimo mandarli in quegli anni, insomma, ai primi anni 2000. Da capo, Willy. Give it back. Give me another day.

Quindi anno 2002, live di Licantropi, Papa Willy. E siamo qui per ricordarvi invece la prossima interessante iniziativa a sostegno della radio. 16 giugno 2023 dalle ore 18. La bella confusione o dell'attualità del discorso sull'egemonia culturale. Prendendo a prestito il titolo e una delle parti più interessanti dell'ultimo libro di Francesco Piccolo, La grande confusione, Tabula Rasa, la trasmissione di libri e cultura di Radio Onda Rossa vi invita ad un dialogo a più voci su cos'è l'egemonia culturale e chi sono attualmente i protagonisti che la animano. Parteciperanno Francesco Piccolo, l'autore appunto della Grande Confusione, Monica Petrangeli, Giorgia Serughetti e Zero Calcare. Spazio Benefit Ror, radio abbonamento, magliette, cocktail di finanziamento, dove ovviamente Centro Sociale Autogestito La Torre, via Carlo Giuseppe Bertero 13 a Roma. La Tiburtina Nomentana, per chi non sapesse, via Carlo Marx, ci piace. Via Casal de Pazzi, sapete, qua zona là. Piace sia i Pazzi sia Karl Marx. Won't you come closer? Quindi il 16 di giugno, dopodomani, alla Torre. Del 2017 che si chiama Heavy Psychic Sound, the Witches, Mind Control. Stiamo parlando di Dead Witches. Alla chitarra Greg Elk, poi suicida nel morto suicida nel 2016, Virginia Monti, vocalista 2016-2017, Carl Jerry al basso, Spring alla voce, Rob McKiltar alla chitarra e Sam Catbush al basso. Più o meno si sono alternati. La formazione attuale è Mark Greening, Oliver Hill, Suzy Chalamon e Nile Thomas, praticamente una band completamente rivoluzionata, tant'è che questo lavoro prodotto da Ivy Psych Sound, alter ego del nostro Gabriele Fiori, like andiamo avanti, lasciamo da parte questa collezione e andiamo lenti. Thank you. Lavoro del 2009 questo, Stomach for the Sun. Stomach of the Sun, Transitional. Sappiamo solo che vengono... dalla Gran Bretagna, non sappiamo da Londra se non andiamo errati, non sappiamo di più, non si trovano note esplicative di questo lavoro che tra l'altro abbiamo preso direttamente a un loro live di quegli anni là, adesso non ricordiamo esattamente qual era la data. Tempo vi ricordiamo che siete all'ascolto di Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, www.ondarossa.info, il sito della radio. Andando su Ascolta alla diretta è possibile ascoltare in streaming Radio Onda Rossa, in attesa che forse un giorno altre tecnologie si supportino nel broadcast della radio. E ci spostiamo da questo punto interrogativo dei Transitional invece in lidi più sicuri, più certi, più blasonati, anche se loro sono sempre rimasti così assolutamente schivi e difficilmente catalogabili e etichettabili, incasellabili, ed è ciò che più ci conforta. Siamo nel periodo del Covid, quando King Buzzo, Jeff Pincus, che però è solo la quarta comparsa, Dave Clover e Steve McDonald in arte, Melvins, dallo stato di Washington, producevano questo doppio lavoro lunghissimo, ne abbiamo parlato in lungo e in largo, tutto acustico. Quindi di loro riedizioni acustiche e anche di cover, ovviamente, come è immancabile che ci siano nei loro lavori. Undicesima traccia, Outside Chance, Melvins, a Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Found me, and you don't stand an outside chance. cover del 1900, del brano originale del 1966, suonato da The Truttles. Ma prodotto da Warren Zevin. The Truttles, che tra l'altro abbiamo scoperto essere più o meno ancora in attività. Mamma mia, che discone! Passiamo ad altro, andiamo in una terra insolita, diciamo, per questo tipo di sonorità. Esce un disco per quanto riguarda Salonicco e i Balcani meridionali. Stiamo parlando quindi della Grecia, loro sono Tripes. Lavoro che si chiamava Tripes Stone Paradise. Non so se proprio perché sono tutte scritte in alfabeto greco, quindi sarebbe Tripes Stone Paradiseo. Gimone Andras, che significa Andras, che significa sto diventando un uomo. Quindi Tripes Aragno da Rossa 25 o'clock. Γίνομαι άντρας, Gotham se si liso a pugni a loco ti cara καθώς διασχίζω με μάτια ορθά νυχτά χώρος της προστιχιάς με την καρδιά ενός θηρίου γελίου και παράπονου Gino me andras, gino me andras. favola. Se tutti ben armati e non è futile pensare di bombardare anche le nuvole. Ci fanno lavorare più di staccano, ci fottono caramelle come un pargolo. E poi se una beretta un Kalashnikov, ci vendono le guerre bombe a grappolo. Ci mettono sotto al culo anche l'atomica, trasformano le genti in un giocattolo. Si comprano il pianeta a cifra modica per nuclearizzarlo in un barattolo. Paro tutto paro, ma giù zato tutto codo. A giù verti l'occhio e ma giù mi sommetto fuoco. All'industria delle armi e del petrolio puttano solo un nemico. Questo vero, i padroni di sto gioco. I padroni di sto gioco. I padroni di sto gioco. Maledetti, maledetti, maledetti, maledetti, i padroni di sto gioco. Mangiamo con l'afgano insieme all'arabo, parliamo pakistano con l'ucraino, compagni da Zara fino al Baltico. Abbiamo tutto il mondo nello spirito, distruggi il tuo fucile automatico, strumento dell'età del pittecantropo. Amico, il tuo pensiero è rizomatico, da oltre ogni frontiera e si funambolo. Mezzanotte, il momento delle polemiche, le avete ascoltate prima, la polemica di Joel Talbot, la sua alla ruota. Dal disco Clowers sdraiato, che prende spunto dall'incidente motociclistico dello stesso Joel Talbot, in cui egli stesso racconta di aver creduto di passare moriremo tutti quanti e poi si può dal mondo a quello degli sdraiati, appunto. Siamo stati proprio santi, santi come pomodori spranti. E poi la profetica ribellula santi. Per quanto riguarda il tacco dello stivale, con la testa nella sabbia, qui a Fuggio vengono da giù, dal Salento. E tu mi dici sei un demonio, non ti amo e non ti odio. E questa era la loro polemica contro i padroni del su gioco. Non possiamo salvare il mondo, e c'è sempre. E non possiamo che sottoscrivere quanto raccontato. Radio Onda Rossa, 25 o'clock ai controlli. 16 minuti dopo la mezzanotte, mbè. La faccenda si fa pesante e noi la alleggeriamo. Altra formazione di quelle seminali, come amano dire i professionisti del genere, comunque. A metà fra il noise, la psichedelia, la sperimentazione, fricchettoni come non mai. Pine Tense, questa è Tiger of Babylon. Con la testa. Sempre in polemica con i padroni di sto gioco. E santi, e tu mi dici sei un demonio, non ti amo. foreign words. I understand. I'm the some the old bottle. This time I'm back in town, driving the full throttle. I know I better smile now, get my poetry done. Quindi ci siamo. The Sonic Down, quindi, dalla Danimarca, da Copenaghen. E la loro Summer Voyage, lunga ballata estiva. E poi il nostro, diciamo così, dai. Roberto Falconieri con la sua I Am a Stalker, che peraltro abbiamo presentato qua a 25 O'Clock per intero il lavoro. Avviciniamo lentamente verso la conclusione di questa puntata, dopo insomma esserci anche un po' fomentati. I'm back on the days when I used to get scared to get around. When I used to get scared to get around, I go out, I get killed, I stay in as the wind, let there be. Racconti di lotte femministe in Egitto. Venerdì 16 giugno anche. Abbiamo parlato prima della iniziativa del così dell'incontro al centro sociale occupato la Torre, invece questo alle Cagne Sciolte, via Ostiense 137 a Roma. Racconti di lotte femministe in Egitto dalle ore 12:30, aggiornamento dall'Egitto, dalle ore 20:30 cena vegan, alle 21:30 proiezioni di Trabbet di Manal Khaled. Alle 23 incursioni punk rock da Likewise di Radio Onda Rossa, Cagne Sciolte, via Ostiense 137 a Roma. Poi ancora giornata internazionale del rivoluzionario prigioniero. Il 19 giugno, giornata internazionale del rivoluzionario prigioniero. Chi lotta non è mai solo, il 41 bis è tortura contro l'ergastolo ostativo, contro ogni forma di repressione di oppressione sociale difendiamo le idee e le pratiche rivoluzionarie dagli artigli dello Stato stragista. È detto proprio oggi o anche ieri. Insomma, la dice un po' lunga. Funerali di Stato. Anche se noi crediamo e sosteniamo che il lutto nazionale sia dovuto alla grossa quercia caduta, spezzata nel fusto centenario. Un albero che ha tanto bulimicamente in questa stagione piovuta prodotto vegetazione e foglie da spezzarsi sotto il suo proprio peso, proprio per essere nato ostinato e storto a resistere alla natura inclinata. Dicevamo quindi, lunedì 19 giugno ore 8:30, presenza solidale davanti al Palazzo di Giustizia. Il 19 giugno la Corte d'Appello di Torino riformulerà le condanne per gli anarchici Ianni e Alfredo nell'ambito del processo scripta manent, dopo la Corte Costituzionale ha ammesso la possibilità di considerare le ritenute in questo ricalcolo. Un processo che ha aperto scenari inediti nella persecuzione delle idee e delle pratiche anarchiche e con condanne pesanti e la prospettiva dell'ergastolo per stragi che non hanno fatto né morti né feriti. Un processo da cui ha preso le mosse il leader politico penitenziario che per la prima volta anche ad un anarchico sta sfuggendo la tortura del 41 bis ad Alfredo. I 182 giorni di sciopero della fame di Alfredo, la vasta ed energica mobilitazione che lo sciopero ha sviluppato fuori e dentro le caree, hanno dimostrato che lottare contro le smanie repressive dello Stato è necessario, possibile e porta a risultati. Non disperdiamo questi risultati e continuiamo a lottare. Assemblea di solidarietà ad Alfredo Cospito contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. E quindi lunedì 19 giugno ore 8:30, presenza solidale davanti al Palazzo di Giustizia. Torino. E noi voltiamo pagina. La volta scorsa ne avevamo parlato, ma solo sottotitolati. E passiamo al capitolo Assalti Frontali, ultimo loro lavoro, Courage, da cui ascoltiamo due tracce di quelle anni 90 che così ci hanno visto complici e partecipi del progetto di Assalti Frontali. Quindi, Perdere la testa, Assalti Frontali, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. E poi I Vecchi Pirati. Non mi bastava il come, io volevo il perché. Ho sempre aiutato chi soffriva più di me. Ricordi il Libano, a Bab el Tabané, fumavi il narghilè, le macchine passavano e facevano pepè. Mi dicevi avanti e courage e cuore. Ci sentivamo pronti ad affrontare ogni dolore. Facevamo dei convegni sulla shock economy. Poi eccolo lo shock e siamo diventati enemy. All'improvviso niente più è stato come prima. Si va a caccia di streghe in questo nuovo clima. Io col tempo mi sono fatto sagesco al mattino, gestisco il corpo, una missione e cammino. I miei amici africani vivono dentro un garage, quando ci incontriamo dicono forza e courage. Scambio consigli coi bro, acqua calda e citron, gli anticorpi più potenti

Hola, hola, hola. Onda rossa 25 o'clock con le vibrazioni alla fine, come ci piace giocare. 57 minuti dopo la mezzanotte, ci siamo ormai. E quindi dopo Let's Shine, Give Me the Weather, e poi il remix Thievery Corporation di Roadblock feat. Rachel Jones dalla Russia, Frog Legs. Rocksteady 67. Da capo per le conclusioni. Sì, perché le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa finiscono ora. Ciò significa che vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata, che vi terrà compagnia per tutta la notte con le sue bizzarre selezioni musicali alternate ai podcast, ovvero le registrazioni dei redazionali delle trasmissioni, delle interviste, delle comunicazioni salienti della radio, che vanno in onda nel normale palinsesto perché vengono riprodotte, shakerate dalle follie della compagna Sonata. Si riprenderà domani mattina alle ore 8 con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa e la rassegna stampa cittadina, con i redazionali fino alle 12:30 all'incirca, giù di lì, poi alle 14:00 tutta scena cinema fino alle 16:00, ma qualche volta prima. Comunque alle 16:00 inizia Attica Blues, oltre alla Black Music, ritornata in diretta dai 17:00, quindi Attica Blues, alle 17:00 Le Schiena del Soul, o quel che va in onda in quella fascia oraria, a seconda di quello che le compagne e i compagni della redazione della Schiena del Soul riescono a produrre. Compreso repliche o trasmissioni in diretta di Futopia, insomma non sappiamo cosa c'è nel canestro per domani. Alle 20:00 tabula rasa della trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa, e poi alle 22:00 chiudono la giostra i cuginetti di Apostasia. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro costretti e costrette a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti, decreti amministrativi e tutto quello che resta. La repressione del dissenso, perché sta roba qua non è una cosa solo di paesi esotici. L'abbiamo letto e l'abbiamo detto prima, compagni e compagni in carcere ci sono, come tutto un proletariato che giace nelle galere o costretto comunque. A vivere di precarietà e di stenti e di salti mortali e dei impicci, tutto quello che vi pare. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai, a risentirci a mercoledì prossimo.